Chi è? Chi siete? Lasciatemi stare! Quelli che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E buonasera in questo bellissimo sabato 2 aprile 2022 su Radio Forte 100 Celle Avengers, puntata numero 36, con giubilo e con quel pepe al culo in più che poi vi spiegheremo perché. Io non indugio e saluto subito alla mia virtual destra Silvano. Sì, salve a tutti, ciao. E alla mia virtual sinistra Virginia. Virtual Virginia per voi, ciao a tutti, ciao a tutte. Mentre a seguire l'importantissima giornalista Gabri Lupi. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. E per finire, ultima non meno importante, Betta. Buonasera a tutti, tutte, positivi e negativi, quello che vi pare a voi. Ci ha ormai abituato alla sua presenza anche il grande Jorge il Mentiroso. Buona pioggia a tutte e a tutti. Grazie Jorge per l'augurio in questo giorno in cui, appunto, come dicevo, andiamo in onda con delle modalità nuove ma profondamente vecchie. Non so se c'è qualcuno che ha nostalgia. Io ce l'ho Iron Man, in effetti. Io ho messo il pigiama per l'occorrenza. Esatto. Cioè, tutto questo non vi ricorda un po' l'inizio, il nostro glorioso inizio di 100 Celle Avengers, quando praticamente stavamo tutti così a casa, perché fondamentalmente siamo a casa e abbiamo voluto sfruttare la tecnologia che ci collega, che ci mette in presenza, in conferenza, in audio cosanza, perché questo è un motivo futile, diciamo, ma che ci riporta appunto indietro alla pandemia e soprattutto che viene spiegato meglio di me da una Benzo canzone. Positivo. Il nuovo detersivo di Jovanotti vi offre... positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri, non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene, io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che va, credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare quest'onda che va, oh! Quest'onda che viene, che va, oh! Quest'onda che va, oh! Quest'onda che viene, che va, oh! Niente, dire che mi manchi Silly di poco, adesso ti ho anche smutato, incredibile. Ma senti una cosa, ma questo era il nuovo modo per annunciare i risultati dei tamponi? Sì, diciamo che appunto esattamente con la premessa che ovviamente sto abbastanza bene, sì, ho pensato di dirlo così con una certa grinta, ecco, questo fatto che appunto ci siamo ritrovati fra le mani, ma non solo io, infatti si può dire che è un momento magico per la scuola di musica forte del quale siamo la voce radiofonica, perché abbiamo un'alta percentuale fra allievi e maestri di cui ovviamente cureremo la privacy, salutandoli tutti in blocco con un grosso abbraccione ai positivoni della scuola, poi in realtà li spoilereremo tutti, però pian piano centelliniamoli. E niente, quindi con questo fervore che Iron Man mi ha aiutato a montare tutta una questione che ci ricordava un po' i vecchi tempi, quando la stanzetta era appunto il regno della tecnologia e dei devices. Sì, esatto. Ma infatti posso chiedere, posso avanzare una... Volevo sapere come stanno Iron Man e Alexa, che sono tornati a casa. Sono contenti di stare qui a portarmi le cose, perché io comunque cerco di uscire dalla stanza. La stessa Gabri. Ah, sono loro! La stessa Gabri Grubi è cablata con un microfono e una cassa al di fuori del perimetro infetto della mia stanza. E questo rappresenta un po' anche appunto uno dei punti pro e contro allo stesso tempo. Diciamo, croce e delizia. Gabri non può entrare. E quindi per esempio questa stanza è un po'... non ha più pareti, diciamo. Come no? No, diciamo che è diventato il mio regno. Gabri non può entrare. Qui viaggiano calzini, mutande, cibo, tutto agglomerato nello stesso letto. E io in quel letto ci continuo a dormire. E Gabri non può entrare. Questo è quello che succede a casa. Comunque, vabbè, fondamentalmente. Ma non può o non vuole? Va tutto bene, stiamo bene. E fondamentalmente i passatempi sono tanti. Io avevo un microscopio che mi hanno regalato per il compleanno, col quale volevo analizzare le mie caccole per vedere se effettivamente ci sono i cosi viola con gli spuntoni. Però non so se il microscopio che mi hanno regalato è in grado di fornirmi questo passatempo, però il viaggio anche in questo caso è il vero passatempo, diciamo, il tentativo. Allo stesso tempo ci sono altre cose che uno può fare nella solitudine, nell'isolamento, e fra queste appunto una è la fabbricazione di ammenicoli per i quali servono gli attrezzi, i giusti attrezzi. Vi chiederete perché sto parlando con questa voce un po' commerciale. È perché, ragazzi, cioè, fare questa puntata è stato difficile. Abbiamo bisogno di tecnologie, come ho detto già più volte, e queste tecnologie non ce le avevamo tutte, avevamo bisogno di uno sponsor. E quindi Iron Man, lo so che te non te va, però hai promesso che lo dicevi, e quindi... Questa trasmissione è offerta da... Bazzai! Bazzai! Voglio una vite così, l'abitatore così, se la di Bazzai! Bazzai! E Parkside, dunque, l'attrezzo che non ti molla mai e che è utile. Questa settimana diamo delle idee, ogni settimana ne daremo una. E abbiamo pensato con Gabri, nel momento in cui io sono tornato dal lavoro che stavo facendo e ho scoperto di essere positivo, ci eravamo appena salutati. Ciao Gabri, dopo tanto che non ci vedevamo. Bene, bene. E ricevo la notizia di essere positivo e quindi io e Gabri ci isoliamo. E quindi fra le varie idee che la Parkside propone quest'oggi, ma senza un sottofondo adeguato non è. E quindi fabbricati da solo con Parkside il tuo Glory Hall. Nessuno aveva pensato all'efficacia di questo vecchio espediente della pornografia per fare l'amore free. Noi non vogliamo giudicare né essere giudicati, però nessuno ci aveva pensato e forse 100 Celle Avengers oggi può essere all'avanguardia anche in questo. D'altra parte ci avviciniamo al festival dell'Eros e del vino, laddove quel vino eravamo sempre preparati, l'Eros non sapevamo mai che dire, perché non parlare anche di questo? Pannelli, Glory Hall, fatti col Parkside. Vabbè, ok, lo spazio pubblicitario è finito. E mi è andato il sangue al cervello, non so più come andava a finire questa storia. Ah, andava a finire che Gabri, che non ha parlato perché probabilmente era troppo emozionata, ha comunque selezionato per voi una canzoncina che andiamo ad ascoltare e che mi sembra di Valerie June, giusto? Esatto. Gabri, vuoi dire qualcosa su questo pezzo? No, introduce bene il tema di cui magari parleremo più in là. Più in là. Quindi Valerie June su Radio Forte 100 Celle Avengers. Thank you. 100 celle Avengers. E sempre in diretta su Radio Forte 100 celle Avengers, lesti a smutare i microfoni e alzare i volumi come non lo siamo stati mai. E questo era Working Woman Blues, gran pezzotto che ci ha proposto Gabri Grubi, così a tradimento. Working Woman Blues, mi sentite? Sì. Okay. Forte e chiaro. Magari ecco, sempre avvicina sempre al microfonone, perché si sente che sei in una stanza remotata della casa. Ma è bello anche questo. In questo sabato 2 aprile alle 17:16 su Radio Forte 100 celle Avengers, mi rendo conto che devo continuare a parlare io una volta, ma questo è un po' tedioso. Io vorrei sentire comunque un rabarbaro generalizzato digitalizzato, se possibile. Meglio di quello vero. Comunque grazie amici, perché mi state vicino, perché questo è il momento che appunto non poteva essere che questo, quello che dava l'inizio più o meno alla carrellata di rubriche, traumi fonici, sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E non posso, ecco, mettere il solito sottofondo se non questo, che anche Gabby ci teneva. Tutto comincia a Rimini. La canzone che sentite appunto lo dovrebbe rievocare se non l'avessi messa nel suo ecco appunto. Dicevamo, in quel di Rimini si svolgeva quest'anno la fiera, come tutti gli anni, la fiera delle tecnologie audio e luci e video per lo spettacolo. Praticamente insomma la fiera degli addetti ai lavori, un evento che ho sempre frequentato, saltuariamente frequentato come appunto frequentatore e interessato, ma questa volta ci lavoravo, incredibile. Ma quello che fondamentalmente vi vado a raccontare non è certo la tecnologia che ho visto lì, perché in radio viene sempre molto bene spiegare certi impianti, certe cose, ma la cosa bella è appunto la convivenza, il mordente che si crea nel gruppo, no? Cioè, poi adesso voi sapete già come finisce la storia, cioè già vi fa un po' ridere, insomma, che vi dica questa cosa, nel senso, io ho avuto la solita stanza doppia con un compagno di banco che aveva un problema, cioè, fondamentalmente soffriva di insonnia e quindi il giorno dopo, già la prima notte, ha già chiesto di avere la singola, gli è stata negata, e quindi insomma abbiamo vissuto questa settimana meravigliosa di silenzi e di, non lo so, di tentativi miei di non dargli fastidio, epifanie notturne, insomma, che ha creato una specie, mi faceva pensare a una specie di spettacolo teatrale, teatro dell'assurdo, quei spettacoli circolari con due che dormono, uno si sveglia perché l'altro russa e comincia a pensare, ma perché sono sveglio? Ma chi è che mi ha svegliato? Boh, non lo so, ma forse si è svegliato per... e l'altro comincia a correre per la stanza, andare in bagno, torna e te quindi ti svegli e quindi poi comincia a pensare a respiro piano finché l'altro finalmente si addormenta e comincia a russare lui. E allora insomma praticamente c'è questo soffriva di insonnia, ma russava poi e il suo russare in realtà era il mio segnale per dire, ah che bello, finalmente si è addormito, perché sennò memoro le sensi di colpa. Insomma, vabbè, tutto questo mi faceva pensare. Il fatto, dottore, è che io quando dormo russo, e quando russo sogno, e sogno uno che dorme e che russa, ma russa forte, russa più forte di me. Ma anche lui sogna. E che sogna? Sogna uno che dorme e che russa più forte. Ma lui russa più forte di tutti. E russa forte, russa più forte di me, più forte di lui. Lui russa che, e fa un casino e tutto che russare. E si sveglia tutti, sai. È un servento di dormire, mi sveglio io. Si sveglia lui e si sveglia quell'altro e russa forte. E così per riaddormentarmi ci vogliono tre tavoli. Uno per me, uno per lui. È uno per l'altro. E mi ricordava appunto questa cosa, ma cioè non facevo in tempo appunto a fare la battuta con lui. Pensa, dopo tutta sta convivenza, se passiamo pure il Covid, ma ha passato pure il Covid, quindi appunto la storia si conclude bene. Salutiamo AMG, insomma salutiamo la, tutti i colleghi del lavoro, che comunque la squadra audio tutta se l'è preso e alla grande. E a questo punto, sempre ispirato dal mio amico che comunque dalle 8 a mezzanotte era un grandissimo collega eccetera, nel senso mi ci sono trovato benissimo e lo saluto, ma appunto da mezzanotte diventava sto dramma problematico, per cui il pezzo che andiamo a sentire sono Ladri di biciclette, Dottor Jazz e Mr. Funk, citando il gran Louis Stevenson. Grazie maestra Viola, grazie maestra Viola. We'll be right back. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, è il momento della cultura e purtroppo la maestra Viola non c'è. Lo so, però ha detto che gli possiamo telefonare. E quindi incredibile, su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17.26 prende corpo la prima vera telefonata in diretta. Non vi stiamo prendendo per il culo come al solito, questa è una vera telefonata e potrebbe infatti non andare bene. Però io sono fiducioso, guardo il mio display, sento il segnale del libero e adesso... Oddio. Ciao bimbi! È lei, incredibile! Ciao, la maestra Viola in diretta telefonica su Radio Forte. Benvenuta! Ciao, come va? Alla grandissima, non si vede? No, sì, non certo, si vede. Infatti, vi sto seguendo, siete super attivi anche così, in questa modalità nuova. Comunque non ci attendiamo mai, grandi! Tu, in quel di dove sei? Ce lo vuoi dire o è incognita? No, certo, posso dire, sono a Reggio Emilia. Attenzione, a Reggio Emilia, a nord. Sì, al nord, sì. E avevi pensato addirittura a leggere in diretta o è una cosa che poi al nord... No, lo posso fare perché io non era prevista questa cosa, quindi me l'ho preparata e tutto, solo che poi non ho avuto momento per produrre e quindi però ce l'ho la poesia perché diciamo ho conosciuto così navigando in internet questa poetessa che bella, molto molto interessante, e sono letta alcune poesie e quindi niente, avevo pensato di portarne una a proposito. Poi ho letto anche quando scrivevate appunto le cose da portare in radio, che Virginia portava il Girl Power e quindi ho detto mamma spoiler mia, cala. Spoiler, lo so. Vabbè, ha sentito, era un rumors. D'altra parte, quindi, con tutte le storie che si fanno, sì, certe cose trapelano. Certo. E quindi vuoi un sottofondo adeguato? Sì, se c'è, grazie. È gratis, è gratis. E sempre ovviamente nella speranza di una atmosfera. La poesia è di appunto la poetessa è Jumana Haddad, che oltre ad essere poetessa è giornalista e attivista libanese. E allora vi cito subito la poesia, eccola. Allora, la poesia si intitola La donna che aspetta. La donna che aspetta intuisce quello che c'è. Non è che quello che c'è non è quello che avrebbe potuto essere, ma nemmeno quello che sarà. La donna che aspetta vede il segreto oltre il buio, il viaggio oltre il passo, il bacio oltre le labbra. Vede se stessa oltre la loro immagine di lei. La donna che aspetta tocca quello che non possono vedere, canta quello che non possono sentire e ogni giorno incide un sorriso nuovo nella carne dell'alba. La donna che aspetta ha il cuore nel palmo della mano, offerto come una fontana di sangue. Goccia dopo goccia, battito dopo battito, sfida il tic-tac del tempo e avanza. La donna che aspetta non si guarda dietro, non si guarda davanti, si guarda dentro e cresce. La donna che aspetta invoca il vento, le stelle, i mari e culla nei suoi occhi i sogni che fanno girare la terra. La donna che aspetta sa che non è la barca quel che lei aspetta, ma che è la barca che sta aspettando lei. Finita. Ma come fa? Incredibile, applauso alla professoressa Viola che grazie. A distanza grazie ci ha sempre, emozionato amici. Come sempre, se non di più. Molto bella, vero? Molto bella, devo dire che brava maestra, me la sono gustata e grande, nonostante grazie. Non avessi il riverbero che di solito sottolinea questi momenti, cioè forse un riverbero allora, sono in un bagno però esatto, no, ma anche io ho un riverbero naturale qui nella stanza che garantisce di solito si dice che nei bagni c'è un'acustica migliore. Sì, infatti è venuta comunque atmosferica, infatti togliamo a anche... proposito di questo, scusatemi. Prego. Mi aggancio con i Beatles dicendo che She Loves You, loro la provavano nel bagno di casa di Paul McCartney perché c'era un'acustica migliore e torno indietro. Cioè, ma allora non è una leggenda metropolitana, è vero? No, c'è pure Paul che lo racconta, è molto bello, sì. Quindi... E niente. Quindi, cioè, andiamo di palo in frasca, come leggo sulla scaletta, cara Virgi. Facciamo così, tanto non abbiamo possibilità di scappiarci il cartaceo. Dimmelo sinceramente. È vero, non ci... Dimmelo in faccia. Adesso come adesso? Io c'ho Music and Poetry e dopo c'ho un... No? Cioè, forse la tua cosa preferita di forse? Sempre, no? Okay, quello che stavamo volevo essere, aspettando. Volevo essere sicuro, perché noi comunque siamo sull'attualità, come al solito, con la scuola di musica che rappresentiamo radiofonicamente, e quindi rappresentiamo soprattutto la musica d'insieme, che è composta di quattro gruppi con i nomi Aria, Acqua e... È appunto quello che stavo dicendo, cioè la scuola di terra, e che ha normalmente una sigla. Sigla. Los cuatro elementos, los cuatro elementos, el aire, el agua, tierra, el fuego, cuatro elementos, los que tocan juntos, los cuatro elementos, los cuatro elementos, tierra, fuego, el aire, el agua, cuatro elementos, los que tocan la música juntos. Ay, ay. Sì, vabbè, sta durando un po' troppo sta sigla, eravamo tutte lunghe. Come sì? Dai, chiudiamo. Los cuatro elementos, los que tocan la música juntos, juntos. Ai. Ai no. E quest'oggi allo Squadra Elementos di R100 non ha pescato le solite indiscrezioni dalle salprove della scuola di musica, bensì abbiamo la sfida che lancio ai docenti e ai discenti della scuola di musica, che si articola in questa mia monografia, diciamo, di tipo non, cioè non è che ci concentriamo su un autore, ci concentriamo proprio su un riff. Quindi un solo riff fa la storia. Adesso 2 anni l'abbiamo passati con quello di Centocelle Avengers. Adesso, diciamo, il passo avanti è lo Squadra Elementos, che vuole essere il nostro nuovo, vuole proprio essere il nostro nuovo tormentone. Ma qual è la sfida che lancio intanto ai Terra, i più colpiti dal Covid in questo momento? I Terra, che mi hanno degli elementi rock molto importanti, che io amerei ascoltarli appunto in questa versione che sto tergiversando perché non trovo come al solito, ma poi l'ho trovata. E quindi lo Squadra Elementos. Era questa proposta. Nel frattempo ho sentito un telefono che moriva, ma non so se la maestra Viola è ancora con noi. Sono io che ancora sono ancora collegata. Incredibile. Ragazzi, vedo che adesso vi continuerò a sentire come una ascoltatrice. Come una consumatrice. Come una consumatrice, sì. Okay. Ai bambini manchi già. Comunque, grazie maestra Viola per il contributo. E alla prossima puntata, grazie, dove voi, ci sarai sempre. Grazie a voi. Ciao Viola. Ciao Viola. Ciao maestro. Un bacio, ciao. E sempre su Radio Forte, Centocelle Avengers, il reality delle telefonate in tra di noi, incredibile. Abbiamo sentito lo Squadra Elementos, versione hard rock. Chissà se i Terra coglieranno la sfida lanciata. Non posso parlare a me di tutti, maestro, ovviamente. Però qua è raccolta. Ok, la prendo come un sì. Nel frattempo traverso e vedo che sulla scaletta c'è addirittura un simple sample, ma leggo bene, è vero? È incredibile. Sì, risponde a realtà. Allora, cioè, addirittura come ai vecchi tempi. Però, potrei dire, ma tu c'hai tutto. Io posso parlare, posso dire quello che devo dire. Puoi dire anzitutto quella cosa che si dice di solito. Sigla. Simi. Ascolta Tommy, con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Prego. Pronto? Si sente? Si sente tutto? Forte e chiaro. Perfetto. Scusate, è la prima volta che parlo oggi. Allora, volevo dire no, è perché mi piace questa cosa che oggi io non c'entro niente con le problematiche. Sì, ma quindi se parli creiamole a me, così a buffo. Allora, dicevamo, no? Oggi si sì, occuperà di un caso molto particolare, perché invece di parlare come al solito di pezzi che sono stati... Perché mi sposto le cose? Perché metti le cose sul computer dove... Ma perché mi devi sempre distrarre? Allora, dicevamo che oggi Simple Sample non si occupa di un classico caso di sample, diciamo, campionato, no? Ma si occupa di un sample suonato. Perché oggi il sample in questione riguarda il nostro caro facente parte della musica d'insieme, Mario Biondi, detto anche Stick. Ah, proprio lui, quindi... Vabbè, scusa, è qui, devo chiamare al maestro che mandasse... Stai ascoltando Radio Forte, e questo è il 100 CL Avengers. Questo per far capire a chi alludeva il buon Silly. Ma lei sta veramente sempre sul pezzo, maestro, complimenti. Questo silenzio ovviamente è dovuto al fatto che io sono al mixer, quindi è un disastro, però non ti preoccupare. Ma tu stai facendo tutto, non sei solo al mixer, complimenti a mettere una pausa. Un po' di sottofondo, ma sempre poi... giù. Hai ragione. Detto questo, io farei sentire i due campioni in questione. Partiamo dal campione del pezzo di Mario Biondi appena uscito. Bello sonoro, cazzo. Questo è il campione di Mario Biondi. La prossima volta... pezzo si chiama... Lo devo abbassare, sì, no, però no, il secondo sarà più basso, stia tranquillo, maestro. La canzone si chiama You Never Find, che è una cover di Lou Rawls del 76. Ma adesso andiamo a sentire l'altro campione. Prego, maestro. Questo invece è un pezzo dei Coop del 2001, che si chiama Summer Sun. I Coop, questo gruppo svedese, in cui anche la cantante, che si chiama Yukimi Nagano, in realtà è svedese, e hanno fatto quest'album nel 2001, che ha vinto anche un Grammy nel 2003, e sembra abbastanza evidente che il nostro caro Mario Ranno, sarebbe Mario Biondi il nome originale di Mario Biondi. Ah, sì? Esatto, perché lui si chiama Ranno e ha preso il nome d'arte Biondi dal padre, perché il padre era uno che cantava prima di lui e ha provato a sfondare prima di lui. E da lì ha fatto, se ci riesco io voglio usare il nome di papà. In quanto Biondi, quindi. In quanto Biondi, chiaramente sì. O era biondo? No, biondo non lo sapremo mai. Io non l'ho mai visto negli anni 80 quando aveva i capelli, quindi facile non lo so. Un umorismo sulla gente che perde i capelli. Io non ho detto nulla, veramente, guardate, siete voi che avete detto Biondi, io non ho detto nulla. Comunque, detto questo, come è evidente che il nostro Mario Rano ha preso questo campione per cambiare una cover... il suo pezzo del 76, del pezzo di Lou Rawls del 76, arrivato secondo nella classifica Billboard, andiamo a sentire appunto il pezzo di Mario Biondi, che fa parte dell'ultimo album, che è uscito il 13 marzo del 2022 e si chiama You'll Never Find. Prego, maestro. You'll never find another love like mine. As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find search. Someone who cares about you the way I do. I'm not bringing on myself, baby, but I'm the one who loves you best. Of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme of the magic we shared, just us two. Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta precaria da casa alle 17.44 di questo meraviglioso sabato 2 aprile. Sento cose che succedono sul canale Gizzi che non so come classificare, perché non ho la gente che si fa le sigarette, che muove le cose, fa i rumori. Non ho il supporto video, esatto, che mi consente di capire che cosa si cela dietro a una semplice meter dove ci stanno varie persone collegate. E abbiamo sentito la necessità di prolungare il momento culturale. So, Iron Man, è proprio dedicato a te questa cosa, lo sai benissimo che ogni tanto, una ogni due, tre puntate, ti tocca imparare. E quindi, come si chiama questo? Suona Just Cares for You. Suona Just Cares for You. Eccoci qua. Niente, qua mettiti seduto perché è un sonoro, diciamo, non si può dire pippone, diciamo pippone. E questa volta mi avvalgo dell'aiuto da casa, o meglio, cito senza andare a braccio come di solito faccio, e leggo quello che credo sia, insomma, una descrizione abbastanza esaustiva del fenomeno che mi ha intrippato questa volta per Suono Just Cares for You, e che è l'accordatura. Ora, tutti sanno, non è vero, vabbè, molti sanno, se non altro chi si accorda la chitarra si accorgerà che quando lo fa, insomma, normalmente nota un numeretto che si chiama frequenza, che è 440. Insomma, l'accordatura standardizzata che conosciamo è 440. Adesso quello di cui si parla invece è l'accordatura cosiddetta di Dio, che se avessi il riverbero che normalmente abbiamo, ovviamente avrei sottolineato. Comunque, la questione è, diciamo, scientifica, quindi mi riporta, cioè, diciamo che leggo questa cosa perché ho solidarietà anche con questo che ha scritto questa roba su Wikipedia, perché incontra poi la stessa mia difficoltà che ebbi quella volta che cercai di raccontare agli studenti di musica il suono raccontato dal punto di vista scientifico, quindi le frequenze appunto. Mi barcamenai, inventai addirittura il famoso termine disanima, ma non ne venni fuori molto bene, non lo ricordo, cioè la gente mi guardava ancora interrogativo. Quindi per questo io leggo una cosa di un altro, così ve la pigliate con lui. La frequenza di 440 Hz è quella della nota del monoscopio della TV italiana. Avete presente, no? Quella quando non c'è stava niente in programmazione sulla Rai ai vecchi tempi. Vabbè, del diapason usato dai musicisti, ping, corrispondente alla della quarta ottava del pianoforte, per chi suona il pianoforte, e il riferimento dei segnali acustici campione usati nei laboratori di acustica, e vabbè, fino a qui. La questione curiosa è interessante. L'ascolto di musica eseguita con strumenti accordati alla frequenza di 432 Hz, cioè un La lievemente più basso di quello a 440, oggi adottato in realtà, favorisce il benessere di chi ascolta? Questa è la questione, incredibile. Un esperimento suggerisce che spostando il La da 440 a 432 vibrazioni al secondo, negli ascoltatori il battito cardiaco diminuisce di 5 pulsazioni al minuto. Insomma, siamo in quel campo di roba di cui si parlava l'altra volta, sapete, ascolta la musica classica quando il bambino è nella pancia che si moltiplica col multiplo del battito cardiaco, eccetera. Insomma, nell'ambito della musicoterapia, che spero un giorno venga spiegata meglio di me dalla maestra Locurzio, che se ne occupa appunto nella nostra scuola, appunto si tratta di questo. Secondo gli autori, rispetto alla musica normale accordata a 4,40, la musica a 4,32 ha prodotto una lieve, benché non significativa, diminuzione della pressione del sangue, una marcata riduzione della frequenza cardiaca, insomma dei calmi, hanno detto dei calmi un po', e una leggera diminuzione della frequenza respiratoria. Inoltre i soggetti erano più concentrati sull'ascolto, più soddisfatti dopo le sessioni in cui ascoltavano musica, e quindi insomma pare che, cioè, se gli fa 4,32 gli dice tutto a tutti. Di qui le conclusioni. I dati suggeriscono che la musica sintonizzata a 4,32 può ridurre la frequenza cardiaca più della musica sintonizzata a 4,40. E vabbè, quindi torna utile. Si tratta di valutare gli effetti, diciamo così, sanitari, cioè quanto può servire sta cosa. E quindi poi per far... questo è il momento in cui lui non capisce di non essere capito. Per farsi un'idea di cosa significa una variazione di 8 Hz, cioè da 4,40 a 4,32 nell'accordatura di uno strumento, rispetto a questa nota, è utile ricordare che nel corso della storia della musica e nei diversi paesi, le oscillazioni della frequenza di riferimento sono state diverse, insomma hanno adottato diversi standard. Per esempio c'è l'accordatura del già citato Giuseppe Verdi, perché poi c'è stato tutti autori noti che hanno, cioè il clavicembalo del Bach, insomma tutte le varie cose che poi sono nomi noti. Tra cui Verdi appunto, la prima convenzione universale a 4,40 è recente, al 39 risale. E il primo congresso svolto a Berlino, prima si usavano spesso 4,32, 4,35, ma si toccarono gli estremi 3,90 verso il basso nel periodo barocco e 4,60 verso alto. Immaginate, molto... non si riesce a immaginare, perché in realtà sono appunto variazioni infinitesimali che però appunto sembra che generino. Sapete quando si parla di, insomma, di misure auree, sezioni auree, cose di questo tipo, il fondamento c'è, per quello che uno poi ci si intrippa, tanto più se poi non ti sei intrippato scientificamente quando scopri che c'è una corrente che dice che la Chiesa a un certo punto ha capito che col 4,32 si stava troppo bene e quindi l'ha vietato. Allora te intrippi, è proprio la volta buona che ci caschi, un po' come che mi sta uccidendo. C'è qualcuno che non è d'accordo e quindi ha deciso di uccidermi. Indovinate chi era, raga? Lo posso dire? Gabri! Lo volete sapere? Eri tu? Io mo l'ho mutata. Allora, Gabri, adesso ti ho smutata. Abbassa leggermente, come si dice a casa, abbassi la televisione, signora. E niente, stai parlando, Gabri? Ok. Probabilmente abbiamo un problema tecnico nella parte più vicina del nostro collegamento, cioè chi è lontano ancora è presente, ma Gabri che è vicina ha genera dei problemi non indifferenti che andremo a indagare tra poco. Comunque la pippa sul 4,32 era finita, era con orgoglio che se è ancora viva dopo l'innesco passavo la parola alla dotta Betta, se non sbaglio, giusto? Ah, proprio a me? Sì, io da scaletta credevo... abbiamo un angolo solistas, esatto, di cui tu sei rappresentante, per cui vieni regolarmente messa in mezzo, non è che mi posso collare anche i solisti. E certo, e poi dopo che abbiamo guadagnato tutto questo tempo dicendo tutte queste cose, direi che posso dire puoi sigla. Il ci sarò. Eccola. Eccoci ancora, Radio Forte, 100 Cell Avengers. Scusa, volevo fare l'entrata, non l'ho mai fatto. Hai fatto molto bene, brava, brava, fallo più spesso. Allora, io direi che voglio approfittare però per fare due piccole parentesi. Una è anzitutto, insomma, per incensarci da soli, fare i complimenti al maestro Suano perché ha reso possibile questa cosa, ragazzi, che penso tecnicamente sia una sorta di suicidio. E non oso immaginare la quantità di tecnologia che adesso c'è all'interno della sua stanza, compreso Iron Man. Ci sono diversi campi magnetici, sì. Bene, cose che si cominciano ad attaccare cose. E la seconda piccola parentesi è per salutare i nostri amici che ci seguono su Telegram, che insomma non ce li siamo calcolati fino adesso. Ciao Fra, ciao Manu. È vero, non avevamo neanche detto che c'erano dei contatti. Se io non avessi mutato Gabri, forse vi potrebbe anche dire, ma niente, è ancora... No, non l'ho mutata, è solo che non funziona. Probabilmente dobbiamo capire durante la musica cosa succede. Nel frattempo parlavamo di Solistas, ma stavolta in realtà non parleremo proprio di Solistas, ma di Privatistas. Perché, ragazzi, io sono almeno penso 2 o 3 anni ormai che insomma sto all'interno della scuola di musica e c'era questo termine che proprio non capivo, ma non avevo mai avuto, come si dice, il coraggio di chiedere cosa fosse un privatistas. E quindi oggi, anche un po', diciamo, per l'onta, perché solitamente i termini me li invento io per dire le cose lunghe con una parola, stavolta volevo sapere cosa significa questo termine. Il privatistas in sostanza è l'evoluzione malvagia del solista, perché vabbè, detto così suona male, no. Un po'. Il privatistas solitamente è il solista che non ascolta nessuno, perché decide che un pezzo gli piace, ragazzi, lo vuole poi proprio fare, e quindi non ascoltando neanche né la musica d'insieme né il suo maestro privato, decide di fare per conto suo il suo pezzo. È cosa che è successa molte volte all'interno della scuola di musica, no? Mi confermi, maestro? Cioè, più che altro si tratta di adunate sediziose, perché poi ci si metteva d'accordo fra ribelli e appunto... Quindi los privatistas si raggruppavano su pezzi che erano stati scartati ufficialmente dai maestri. Posso aggiungere una cosa su questo? Prego. Che il maestro Suano, nonostante sia il maestro Suano, comunque fa anche spesso parte dei privatistas, quindi questa cosa mi piace da morire. Scusatemi. Sì, ai ai ai, signora Longa. Ammetto che ho capeggiato anche la di volta quando ero allievo, però... Contro te stesso, l'hai fatta contro te stesso e contro gli altri, maestro. Mi do spesso alzato i piedi, questo... Senti, maestro, ma ce l'ha il coraggio di fare lo stacchetto live dei privatistas? Ah, è avvenuto nel brainstorming, com'era? Los privatistas, lo scritto che non lo chiede, sin tributare ad alguien. E non chiedono a nessuno, grandioso! Sin tributare ad alguien, esattamente. Adesso la rimoduliamo e diventerà il nuovo tormentone. Vabbè, tutto questo per dire che il nostro privatista stavolta è, tra parentesi, uno degli ascoltatori che abbiamo appena salutato su Telegram, il nostro grandissimo Francesco Casali. Che ci canta More The Words, un pezzo degli Extreme, molto anni 90, che introdurre con una piccola frase che Nuno Bettencourt disse a proposito di questo brano, a proposito della frase I love you, ti amo, che secondo lui stava diventando abusata e priva di significato, e scrisse questo pezzo con questo intento. La gente la usa così facilmente e con tanta leggerezza da pensare che basti dire ciò ed è tutto risolto, tutto ok. A volte è necessario fare qualcosa in più e bisogna dimostrarlo. Ci sono altri modi per dire ti amo. Extreme, More Than Words. It's not the words I want to hear. Ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, Centocelle Avengers, la musica si difende e impara a difendersi anche da Gabri che la boicotta. Sei tornata, amore? Eccomi, sì, purtroppo tirando il cavo ho fatto un casino, ma continuavo a sentirvi, provavo a parlare, ma niente, vabbè. Allora, io capisco che tutte le volte io, diciamo, faccio... le mie critiche, diciamo, le mie osservazioni, dico non leggete troppo, perché poi quando uno legge, una volta che leggo io mi mandi fischione nelle orecchie, a me non mi sembri professionale, cara Gabri. Vabbè, qui ci stiamo improvvisando su, va bene. Siamo tutti fonici, E quindi niente, abbiamo ascoltato abbiamo ascoltato questa cosa, questa esibizione che mi riporta indietro anche a me, perché la voce che accompagnava Franci ero io, e eravamo romanticamente lì, ci guardavamo negli occhi mentre la cantavamo e mi è risalito tutto, è stato bellissimo. E c'era anche una grande Anita alla chitarra. C'era anche, come al solito, escludo la grande Anita, e mi guadagno sempre la sua stima. Che anno era? Era 2016. Ok, ma vedi, dannate, no, preparatissima. Era il 2016, va bene. E quindi abbiamo ascoltato appunto la rubrica solisti, e in questo momento ci spostiamo verso la neonata rubrica Aspettando Mogol, che tratta appunto dei testi delle canzoni e che ha anche una sigla. Dammi tre. contesto. Scendo giù dal bar, sembro tutto anche a. Ho speso due capa su una sca. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Una parola ancora. Una parola è troppa e quindi approcciamo questa rubrica proprio parlando di quando il troppo stroppia. Abbiamo parlato più volte di cultura, abbiamo avuto il nostro momento ufficialmente culturale che è quello della maestra Viola, addirittura collegata da Reggio Emilia. Ma poi a un certo punto pure noi ci rendiamo conto che far vedere troppo, fa pesare troppo la cultura che appunto ci portiamo appresso, il nostro background è eccessivo. E quindi questo mi ha fatto venire in mente appunto il tema dei testi che ostentano cultura, cioè gli autori di testi che ostentano cultura. Allora, avevo in realtà in mente tanti esempi di gente, che ne so, della scena romana, che non ho sotto gamba, sotto braccio, sotto mano, ma uno ce l'ho, sempre romano, che ad esempio in questa sua canzone ogni volta che tu ci porta nella sua atmosfera. L'effetto è che già no, se stavamo in una serata che comincia a fare, ah, guarda, sembra di stare in un quadro di Degas, un racconto di Zola, vabbè, ma è proprio un modo di che anche nell'umano dà fastidio, quindi anche nel testo, nonostante Daniele Silvestri, che avete sentito, mi piace molto, mi dava un po' fastidio, e poi nella seconda strofa. Un romanzo naive di Stendhal. Pure Stendhal ci mette. Vabbè, questo è solo uno dei tanti esempi di gente che appunto fa paragoni. Paragoni è uno degli strumenti, proprio come proprio lo scalpello per lo scultore, di chi fa rap. Cioè, avete presente quando dice faccio questo come. È un po' il tormento, cioè è uno degli espedienti più usati. Quindi io sono andato comunque a analizzare quello che non si può ormai più dire un rapper, ormai è un artista tutto tondo a 360 gradi. Lo interroghiamo, il suo nome è Achille. Faccio un ritratto e Rembrandt. Ritratto Rembrandt, vado a verificare. Ok, Rembrandt, ritrattista, giusto. Andiamo avanti. Pablo Picasso, esponente del cubismo, vado a vedere gli effetti facce girate al contrario. Ok, andiamo avanti. Tra surrealismo e Duchamp, fai la foto Matisse. Surrealismo Matisse, io chiedo pure un po' l'aiuto di Gabri, che è figlia d'arte, quindi cioè se ci sono, cioè aiuto. Ma non dice fra surrealismo e Duchamp? Io così capisco. E poi dice fai la foto di Matisse. Ah ecco, mi è ripassato, mi è saltato a Matisse. Ti torna sì. Comunque Matisse? Come dici? Non ti torna Matisse sul surrealismo? Sì. Andiamo avanti, ok. Sì. Me ne manca uno comunque. Quando le foto è Boschia. Ci sta girando intorno. Quando le foto è da lì. Eccolo, surrealismo da lì, ok. Quindi ci siamo. L'interrogazione finisce con. Quando le foto è Renoir. Sembra Thuari. È Renoir. Renoir, sempre Thuari, a questo punto spieghiamo che Achille Lauro con Seba Kimitais e quell'altro sono andati in vacanza a Parigi, sono andati giustamente a vedere il Louvre e poi sono andati a Thuari dove c'è sta lo zoo. Praticamente Thuari è la località dove c'è lo zoo di Parigi, come lo zoo di ogni città, e che è anche nella periferia, quindi è una nota, diciamo, come si chiamano? Le banlieue, insomma una zonaccia dove loro ovviamente gli è piaciuto andare, perché ricordava appunto questi maledetti mi citano l'odio, per quello poi io alla fine l'odio, dove appunto in una famosa scena i protagonisti Vincent Cassel e compagni sono lì che biellonano, passano dei giornalisti a fargli delle domande e loro gli tirano i tassi dicendo non siamo mica a Thuari, come non stiamo allo zoo, perché quelli erano appunto giornalisti che ispezionavano le favelas, diciamo, di Parigi. E vabbè, tutto questo in un film, vi consiglio di vedere, L'Odio, ok. Quindi vabbè, niente, si chiude questa incredibile parentesi di Aspettando Mogol. Volevo mettere Becchioni, era il professorone, però cioè, mi sembrava un po' anche così scontatone quanto già tutta questa rubrica. E quindi non abbiamo Becchioni, abbiamo un grande ritorno della rubrica che fa da riempimento, cioè Centocella Accord, ricordati com'è. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa. Ti ricordi? Pure estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa. E saggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa. Ricordati di me. E questo oggi a Centocelle Amarcord io continuo il filone inaugurato da Betta che riguarda Los Privatistas, perché in effetti sì, mi piaceva anche così la nostalgia di quei tempi in cui Gabri imbracciava l'ukulele e diceva tutto, facciamo questa pezza, perché fu lei quella volta a lanciare diciamo la tua sediziosa per fare questo pezzo. Io sono felice di averla seguita quindi, precursore dei Privatistas, sì. E quindi andiamo ad ascoltare di Beirut, Elephant Gun, cantano Los Privatistas. Thank you. radio forte, gente c'è l'Avengers, troppe cose da fare, il ramarro in gola e soprattutto vi ho smutato tutti un po' piano piano, adesso arriva anche la musica, che bello questa cosa raccontata, eh? E intanto siamo nell'ambito del jazz, il team che è cambiato, il sottofondo importa a molti, e niente, che cosa succede? È scavallata già da un quarto d'ora, la prima ora di divertimento, 18:15 su Radio Forte 100 c'è l'Avengers, la scritta rigidamente scritta da Virginia impone che io mi colleghi con Giorgi, ci sei? Subito! Oh, ci sono! Dio. Oh mio Dio! C'è Giorgi, e quindi che cosa succede? Senza che ancora purtroppo ci sia un'adeguata sigla, cioè un abbozzo si può fare, se siete d'accordo, ma un abbozzo. Era la sigla di Che aria che tira, che esatto. È vagamente a fine. Sì, è una ma roba noi non che... parleremo di aria oggi. Ah no? Ah ok. No, non c'hai dati. È il meteo e quindi il meteo è dato da una persona che passa per il nome di Jorge el Mentiroso. Quindi vabbè, io di, più... di solito dimmi. Sì, io mi baso su dati inventati, volevo dirvelo. E comunque noi veramente? Di solito no. Va bene. Si conferma noi... come mentiroso. Hai ragione. Ma quale sarà la mentita e quale sarà la cosa non vera? La verdade. Suspense. Comunque noi di solito guardiamo il meteo del Forte Prenestino, ma non so se oggi ci interessa davvero il meteo del Forte Prenestino, visto che ciascuna e ciascuno sono in pigiama presso la propria abitazione. Comunque noi facciamo un servizio completo, quindi se hai anche quello va del bene. Forte per chi... Il meteo del passare. Forte ci dice che fanno 6,9 gradi, buon... Non ti preoccupare della base di sottofondo, eh. Ma chi mi chiama? No, nessuno. La sigla in versione lunga, che però oggi ti fa da sottofondo. Ok. Perfettamente il mixer. Ok, prego. Comunque, al Forte Prenestino oggi hanno fatto 0,51 mm di pioggia all'ora, per un totale di 1,78 mm di pioggia. Ricordiamoci di dire sempre se è tanto o poco. È tanto, abbastanza, okay. Penso. Oh, vabbè, oh. A nuovo salario ho grandinato, poi non lo so. Sì, io a nuovo salario ho dei dati sul nuovo salario, vabbè, vediamo un attimo. No, Monte Sacro devi... Alto. Attenzione, già siamo su Monte Sacro. Monte Sacro Alto, via Oglietti tipo, va bene? Ah, va benissimo, talenti. Continua pure con... un po' piena dei fasci, però va bene, sì, comunque se c'è va bene, fanno 7 gradi e okay. Umidità del 74%. Quindi meno che al Forte, comunque molto meno che al Forte, sì. E niente, se vogliamo possiamo anche parlare di Napoli, visto che io sono a Napoli. Ah, ci stai rivelando anche questa cosa, ok. Sì, maestro. Dopo aver a Napoli fanno sensibili. Prego. Vi parlerò di Piazzale Tecchio, dopo vi dico perché. A Piazzale Tecchio fanno 6,2 gradi e tirano raffiche di vento da 16 km all'ora e l'umidità è dell'85%. Perché vi dico ciò? Perché a Piazzale Tecchio ci sta un importante monumento che nessuno ha mai capito a cosa serva. Questo monumento è una torre chiamata, un attimo che ve lo dico, Torre del Tempo e dei Fluidi. Wow. Che è una torre che ha un anemometro in cima. E questo anemometro nel progetto iniziale spingeva l'aria in dei tubi che emettevano delle note col passare del vento. Queste note tra l'altro erano ricordate sui 432 Hz, come avete detto prima. Attenzione. Però diciamo questo interessante esperimento no. È stato fermato. Ah. Che comunque gli abitanti del quartiere dopo un po' ne hanno avuto, insomma, non ne potevano più di queste note che suonavano col vento, anche se erano accordate con la frequenza perfetta per stare bene, avere 5 battiti al minuto di meno del battito cardiaco, non hanno più voluto sentire queste note, non hanno gradito. Jorge, cioè, stai smentendo comunque una roba di molti scienza. Anni fa. Ok, stai dando una grossa smentita scientifica, renditi anche conto perché sei il più dotto di tutti noi. ma sono anche mentiroso, quindi anche magari mentiroso, è vero. Ho inventato tutto. Quindi potrebbe non essere vero. Ma comunque io ero interessato alla questione Rivellino, anche se capisco che sei a Napoli, però c'è la questione Rivellino di cui Gabri mi dice sempre. Cos'è Rivellino? Ecco, sono contento che me lo chiedi, grazie della domanda. Vuoi rispondere tu, Gabri? No, rispondo io. No, prego, prego. Ok, il Rivellino, da Revelier in francese, è una fortificazione in uso nei forti, intorno ai forti. Insomma, il Rivellino è una montagnuola che si faceva intorno al forte, nel fossato, è prima di arrivare, in poche parole, quello che per noi sono le scalette che sali e poi gli scaloni che scendi. Quella collinetta serviva a celare, diciamo, il forte al nemico, il quale si recava lì, cioè aveva giusto il tempo di realizzare che c'erano tutti i cannoni puntati su di lui che moriva. E quindi questo Rivellino è quello che in realtà separa meteorologicamente la gente che sta dentro da quella che sta fuori. Questo quindi per dire, fare cultura anche oggi, fare lo sfoggio come Daniele Silvestri, e dare anche la temperatura quindi fuori dal forte. Puoi dare quella dentro e quella fuori, dire se è uguale come l'altra volta, Giorgi? Certo, facciamo. Un attimo. E anche a questo punto ti chiedo il punto di rugiada, spiega anche cos'è la rugiada, insomma il ciclo dell'acqua, no? Vabbè, come allora, sì, sicuramente. La temperatura nel forte è 6,9 gradi. Subito dopo il Rivellino, la temperatura è... Un attimo che la connessione non è molto veloce. È 8 gradi. Guarda, quindi... con 2 gradi di differenza che li senti tutti. Quasi, sì. E ci sta anche una umidità del 66% fuori dal forte contro il 78% nel forte. Ecco, esatto. La temperatura di rugiada nel forte è di 3,4 gradi, visto che è stato chiesto. Cioè, mentre fuori dal forte a cui si forma la rugiada sulle foglioline sarebbe? Esatto, è la temperatura alla quale bisogna raffreddare dell'aria, una massa d'aria umida, perché l'acqua che è in quell'aria condensi, mantenendo tutti gli altri parametri uguali. Quindi sostanzialmente, se una foglia è a quella temperatura, su quella foglia si faranno le goccioline di rugiada. Molto bene, esaustivo. Applauso! E niente, hai ragione. Applausi! Quando un servizio si riesce a fare anche a distanza, con tutti gli ostacoli, ci meritiamo l'applauso. Ok, basta. E niente, quindi rimaniamo sulla stringente attualità. Io, appunto, stando qui al nuovo salario, non posso che parlare di una novità brutta del nuovo salario, e cioè che pare che voglia chiudere il Batucada. Batucada, scusate, ho pronunciato male, è il pub del Tufello che mi ha cresciuto, in poche parole, e che ha cresciuto non solo me, ha rappresentato un po' un punto di riferimento per tutta una parte di Roma che... poi trovandosi a Roma Nord con gli stereotipi che sono veri o non sono veri, ma non so veri, era uno dei pochi posti dove andare a stare con gente che, insomma, che ti trovavi un po' più affine. Quindi ha subito l'ennesima aggressione di quartiere e notizie fresche è che la proprietaria storica gli ha detto non la faccio più. Speriamo che magari non sia neanche per forza così, io infatti la do proprio a caldo questa cosa, però intanto per far capire anche un po' quello che è stato, soprattutto magari in altri anni, il Batucada di lunedì, per esempio, quando noi facevamo assemblea, il lunedì era il giorno della villata, c'era un botto di gente, tutti lì a via Levanna, la via Capraia, e la via del Batucada precisa, ma non mi ricordo, faccio la figuraccia, ma comunque era l'evento, diciamo, della settimana, e ci sono stati anche live poi la storia del Batucada, ma comunque mi viene da mettere questo pezzo che anche a prole, anche perché l'interprete è Brusco, che ne ha fatto parte, racconta un po' quello che volevo dire. Brusco e Ruzzi in the sky, è tutto a posto. Mo se va, lo sai com'è, Questo è il mio universo, non c'è verso, non cambio diverso, non sarò mai. Paradiso inferno, c'è di tutto all'interno, ma attento ti perderai. Tutto quello che vorrei, le cose che non rifarei. L'universo che è dentro di me. La rabbia di quando ero ragazzino per le botte che vedevo durante i cortei. La solitudine che mi ha colpito il giorno che ho capito che si lasciavano i miei. La gioia di Roma, Avellino 2-0, gol di Agostino, di Bartolomei. Il boato forte prenestino quando per la prima volta ho fatto il DJ. Nel mio universo ci sono i miei amici, i giorni tristi quelli più felici, tutte le rughe e le mie cicatrici, il primo bacio e la mia prima bici, tutti i legami e le radici che ho, le cose che non digerisco, l'ispirazione di ogni disco, l'emozione di ogni mio show. Qui nel mio universo non c'è perso, non cambio diverso, non sarò mai paradiso inferno, c'è di tutto all'interno, ma attento ti perderai tutto quello che vorrei, le cose che non rifarei, l'universo che è dentro di me. Le cazzate che ci rendono fratelli, quando in testa c'ho più sogni e molti più capelli. E ti ribelli. Un presidente che esultava con Tardelli anziché col suo avvocato durante gli appelli. E oltre a quelli, musicanti e menestrelli che mi cantano stornelli, personaggi del Signore degli Anelli, gli Spinelli, qualche strofa e tutti i ritornelli dei pezzi più belli di Bob Marley, di Rino Gaetano e di Gabriella Ferri. Gli animali su cui so più cose di Li Giacolò, da quando il mio parco a Roma ancora si chiamava Zoo. La mia cassa Giulio Cesare, ossia la terza O, dal vinile e la cassetta, dai CD fino all'iPod. Mio zionino a nome qua su, qualche amico che ormai non c'è più, ricordi impressi come tatu, siete tutti ammessi, persino tu. Qui nel mio universo non c'è perso, non cambio diverso, non sarò mai paradiso inferno, trovi tutto all'interno, ma attento ti perderai, c'è tutto quello che vorrei, le cose che non rifarei, l'universo che è dentro di me. Questo è il mio universo, non c'è perso, non cambio diverso, non sarò mai paradiso inferno, trovi tutto all'interno, ma attento ti perderai, c'è tutto quello che vorrei, le cose che non rifarei, l'universo che è dentro di me. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E Radio Forte, 100 Celle Avengers, in diretta live in questo bel 2 aprile, è un po' solitario e un po' piovoso. È il momento del Nord del Nerd. Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte 100 Celle Avengers, c'è una rubrica adotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nerd del Nerd! Nerd del Nerd! Nerd del su 100 Celle Avengers. Buonasera piccoli nerd! Sono venuta recentemente a conoscenza di una cosa e non potevo non condividerla con voi e portarla in causa. Un, come lo possiamo chiamare, un classico, un biopic, insomma, aiutami maestro. Una cafonata? Sì! Una cafonata! Era questo? Esatto, una cafonata! Ho scoperto solo adesso, nel 2022, l'esistenza del film ufficiale delle Spice Girl, ragazzi. E quindi mi sono presa questa cosa di vederlo qualche sera fa. Ragazzi, il film è una sorta di trip dell'SD con delle scene che sembrano totalmente casuali. Magari non ho capito bene il filo, ma sto ancora ragionando sul perché a un certo punto il pullman delle Spice si ferma di notte perché loro devono fare plin plin nel bosco. E a quel punto, giustamente, no, siccome era troppo semplice fermarsi vicino al guardrail, si inoltrano nella selva e ad un certo punto atterra una nave aliena. Sì, ragazzi, una nave aliena, da cui scendono quattro alieni microcefali che cominciano a parlare a schiocchi in alienese. E la cosa divertente è che sia loro che le Spice si capiscono benissimo. E finisce a selfie, autografi sulla panza dell'alieno. Ragazzi, cioè, aiutatemi, perché 75 milioni di dollari al botteghino, perché ci sarà qualcuno di voi che l'ha visto? Io l'ho affittato in videocassetta, me ne vanto. No, era ancora il periodo e non te ne manchi. Era ancora il periodo del VHS, effettivamente. Però c'è da dire che se esiste una giustizia, il film comunque ha ricevuto nomination soltanto ai Razzie Award. Ragazzi, non lo sapevo che esistessero, esistono i premi per i film brutti. E ricevette ben 5 nomination, aggiudicandosi il premio come peggior attrice protagonista per tutto il quintetto pop femminile delle Spice Girls, con la seguente motivazione: un gruppo di 5 ragazze con il talento di una sola pessima attrice. Ragazzi, io povere, le amo, però poverina, no, io le adoro, veramente le adoro, però no, no, questo film no, no. Io poi vorrei parlarvi della trama, ma in realtà neanche quella, cioè il film parla dei 5 giorni prima del loro primo concerto live all'Albert Hall, in diretta mondiale, durante i quali succedono veramente cose a caso. C'è da dire però che c'è il piacere di vedere un cast d'eccezione. Accanto agli Spice troviamo Meatloaf, Hugh Dottorhouse Laurie, Anthony Hannibal Hopkins addirittura, e persino il buon Elton John, nella parte di se stesso ovviamente. La colonna sonora è comunque interessante, comprendendo molti pezzi delle Spice con delle esibizioni di gruppo che comunque fanno sempre piacere, insomma sono sempre le Spice. E bene, tanto di radiazione credo che abbiamo la fan number one che forse mi avrà odiato per questa recensione. Virgine. Non ti preoccupare, posso parlare fra poco, tranquilla, tranquilla. Beh, ma qui ma il diritto di replica. Ma oh prima... sì, esatto, contraddittorio. Io quantomeno però citerei il tuo vestito, almeno per... Ah beh, sì, per suggellare questa diciamo... ammirazione totale che ho per le Spice, no, ma non esageriamo. Comunque ricordiamo e vogliamo ricordare sempre di quando abbiamo fatto le Spice Girl al laboratorio con il nostro grandissimo gruppo, e eravamo 5 Spice perfette. Avevamo trovato i vestiti e io ero riuscita a trovare l'abito con la bandiera dell'Inghilterra di Jerry. Beh, perfetta sarei stata te, insomma. Eri wow. Bellissima, Silvi. Eri bellissima. Okay, abbiamo qui Mel C dalla ricordiamo, scuola, sì, Silvana nel ruolo di Mel C. Peccato, sì, non avere veramente... un contributo, veramente peccato, peccato, mi rammarico di non aver caricato qui quell'esibizione. Ma... però ne ho un peccato altro che diverso, siamo solo in audio. Peccato, sì, anche quello sì, sarebbe stato esaustivo. Comunque mi autorizzate quindi a metterne un estratto di queste ragazze di cui parlate, io non so di chi si tratta. A suo buon cuore, delle Spice. Anche solo perché il sottofondo è finito. Lo vuoi lanciare? Prima di lanciare l'estratto del pezzo delle Spice? Sì. Ok, no, perché ragazzi non abbiamo comunicazione. No, perché magari per chi non conoscesse le Spice, vabbè, torno di sottofondo. Adesso cioè, ci arriviamo, però volevo dire un'ultima cosa per fare diciamo, più che altro una domanda a Virgi, perché questo film è stata una sorta di esperienza mistica per me. Anzitutto, ma forse è lo spirito dei miei tempi, non capisco come si concili tutta la questione del girl power con la compilation di luoghi comuni che stanno nel film, che vanno dalla battaglia di cuscini a Ligio ti sei messa ai miei stivali, ti giuro, al compendio delle barzellette sulle bionde che si vede in scene come non puoi muovere il cavallo lì, e chi lo dice che non posso? Ma il signor Scacchi! Ah ah ah ah, risata, ah ah ah ah, o che ridere. Mio Dio. E quindi demanderò alla Virgi di spiegarci un po' meglio questa storia del girl power. E... io ho le risposte. Wow. Che paura. Io ho solo domande. Io cerco di parlare sempre molto poco in mezzo alle diciamo alle vostre parlate un po' più lunghe, ma non so mai quando devo intervenire, quindi scusatemi, torno indietro. Mandiamo il pezzo e poi ti lascio la palla. Grazie. Say You'll Be There, Spice Girl. Don't Radio Forte 100 Celle Avengers alle 18.36. Vistosi segni dalla regia mi fanno capire che le Spice, tutto sommato, la gente le conosce, non è come pensavo, e che quindi possiamo tutto sommato cedere la palla subito a Virgi. E Virgi, può iniziare subito dicendo che c'è una sigla? Certo, lo vuoi dire? Sigla! Batmo Degage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti, io... Cos'è? Il musical senza la danza. Capito? Ok, Virgi. E avete subito ascoltato nella sigla, ovviamente, il pezzo da cui abbiamo tratto il nostro, la nostra parte di spettacolo, quando abbiamo fatto appunto l'omaggio alle Spice Girl, che era proprio Stop. E siamo nella rubrica Video Dance on the Radio, quindi sì, è vero, parleremo del girl power, ma prenderemo l'argomento molto con le pinze, perché ovviamente in questa rubrica poi si parla delle performer di base, però c'è da specificare insomma un po' di contesto. Diciamo, è un argomento da trattare con molta cura, perché un attimo che si sminuiscono decenni e decenni di emancipazione, la cosa mi toccherebbe abbastanza, quindi ecco, iniziamo con il contesto e non andremo a approfondire troppo, ma ci tengo, ecco. Il concetto di girl power... ovviamente non nasce con le Spice Girl. Il Girl Power, anzi Girl Power, è il titolo ed è il nome di una fanzine del 1991 fondata dalle Bikini Kill, un gruppo della scena punk degli anni 90, la cui influenza sulla cultura pop è molta più di quanto immaginiamo. Parlo di cultura pop anche se non parlo di genere pop di base. Grazie del sottofondo, maestro, stiamo ascoltando esattamente. E appunto la loro influenza è molto di più di quanto possiamo immaginare. Kathleen, infatti, la front girl del gruppo, fu quella che scrisse, proprio lei che scrisse sul muro di Kurt Cobain che puzzava di Teen Spirit, il deodorante che lei stessa usava in quel periodo. Oppure possiamo citare gli Yes, famoso gruppo che rubò il proprio nome direttamente dal secondo album delle Bikini Kill. Il nome... Oh, abbiamo, è vero, dimenticavo, se sentirete Ariel, ci sarà Ariel ovviamente perché siamo a casa, e quindi vi saluta. Ciao, il nome il nome della rivista femminista che fondarono, già influente, era già influente insomma, anche se aveva dato abbastanza consapevolezza, ma in una scena che era già stata sensibilizzata e quindi purtroppo la possiamo definire di nicchia rispetto al, diciamo, al contesto invece della popular music, e appunto facendo un discorso invece molto più in generale, molto più in grande. Il nome insomma diventò dal 1996 invece appunto lo slogan delle Spice, anzi diciamo dal 94, ecco, lo slogan delle Spice Girl, un vero e proprio inno nella cultura pop grazie a questo gruppo. Ora, noi ne stiamo parlando a Video Dance on the Radio, quindi ovviamente ho fatto tutto questo per parlare di una girl band pop che ballava e cantava. Quindi innanzitutto io vi consiglierei due cose, ovvero andatevi a guardare i loro live, sto parlando delle Spice Girl in questo caso, perché potrete trovarli comodamente su YouTube. Io vi consiglio due cose, innanzitutto il live a Istanbul nel 97, ma anche l'esibizione del Madison, al Madison Square Garden del 2008, in cui troviamo una Mel C carica, che si carica addosso, tacca i burattini e tappa tutti i buchi dello spettacolo, seppur pochi, sia vocalmente, sia nella danza e nei virtuosismi. Lei è sempre stata iperatletica, una vera guida per tutte, soprattutto nelle coreografie. Insomma, ecco, questa è una cosa che vi potete godere tranquillamente. Ho aperto questa, ovviamente, parentesi in questo modo perché non potevo non parlarne, ma la vorrei chiudere un po' più seriamente. Perché se è vero che avevamo davanti delle performer stereotipate che hanno usato sempre un marchio preesistente per dare un messaggio edulcorato alla fine della solidarietà femminile, perché poi il girl power nelle Spice Girl era fondamentalmente questo, solidarietà femminile a livello di notizie, di contatto stretto tra di loro. È vero pure che però veicolare un messaggio alle masse in maniera indolore ma comunque perentoria è molto difficile, se non impossibile. E penso che in questo caso le Spice Girl, consapevolmente o inconsapevolmente, siano partite dal basso, un po' dalle ragazzine di 8-10 anni come potevo essere io, che nel momento in cui ascoltavano questo tipo di affermazioni nei confronti poi dell'altro sesso, si chiedevano perché non ci fosse questo tipo di eguaglianza, perché alla fine io personalmente, nella mia esperienza, fino a quel momento non mi ero nemmeno mai posta il problema. Quindi penso che comunque, anche se è stato un esperimento educativo involontario, ci vedo dell'utilità dentro. Detto questo, non fatevi ispirare dalle Spice Girl sull'argomento, fatevi ispirare quantomeno dalle Bikini Kill comunque. E visto che purtroppo io però sono figlia di questo e non di quell'altro, avrei un pezzo da proporre e mi piacerebbe molto mandare un pezzo delle Spice Girl, che è Love Thing. Celle Avenge. Oh, ma! E sempre su Radio Forte, 100 Celle Avenger, quando la timeline si avvicina pericolosamente alla fine, che abbiamo fatto noi, ci abbiamo messo capo di mannaggia. Niente, io con gioia sono pronto per lanciare con una ottima sigla i cigni di Balacà, quindi sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni del Balacà? Eccoci tornati quindi in voce con i cigni di Balacà, che quest'oggi in realtà sarà brevissimo per quanto mi compete. E perché io, veloce come il vento, dato che manca un minuto se non ho fatto i calcoli, e mi riallaccio anche un po' al discorso che si è appena concluso, che abbiamo sentito sul power, diciamo contenuti che poi si ampliano e a dismisura volendo, e quindi io ci inserisco così a gamba alza un contributo che mi arriva direttamente dal mio papà, da Angelo, che saluto, che in ascolto. E diciamo, quindi maestro, se sei pronto, so che avevi preparato anche un'altra serie di cose, ma lo so, non avevi il libro di testo. Credevi, esatto, essere tanto sapiente, non sarebbe così sapiente senza il suo testo per dotanti. E quindi pronti con il contributo? Questo era io che ho perso il libro sui plagi, vabbè, diciamolo, quindi cigli di Balacà è muto. E niente, ci salutiamo praticamente alla fine. Vai col pezzo. Ciao amici di Radio Forte, e in particolare amici di 100 Celle Avengers. Mi chiamo Angelo, 70 anni, giovanissimo, ascolto spesso la trasmissione. Oggi parliamo dell'8 marzo. Sì, lo so che è 2 aprile, ma dell'8 marzo bisognerebbe parlare sempre. Provo a esporre una mia tesi, che è frutto di discussioni, letture, studi, eccetera, eccetera, che tenta di aiutare a capire il perché e il per come ancora oggi nel 2022 eccetera, da secoli persiste questa questo conflitto fra maschi e femmine, che si traduce poi in forme di repressione, di violenza contro le donne. Noi sappiamo che la natura ha come progetto quello della conservazione della specie attraverso la conservazione dell'individuo. Per realizzare questo progetto abbiamo degli strumenti, la natura ci fornisce degli strumenti, tra i quali la seduzione. Tutti gli esseri animati e non animati si seducono, si attraggono. Le cose nascono molto da lontano, secondo me. Dobbiamo andare all'epoca delle caverne o anche prima. Per secoli non si sapeva il perché una donna restasse incinta. Si pensava che fosse un dono degli dèi, quindi frutto di preghiere, di offerte, eccetera, o che fosse risultato di aver ingerito qualche cibo, di essersi accostate ad erbe, pietre, luoghi. Gli accoppiamenti ovviamente si consumavano così come ancora si consumano e avvengono nel mondo animale. A un certo punto una qualche donna, perché sicuramente è stata una donna, sono sempre più intelligenti, avrà visto che lì dove era stato buttato un seme, un chicco di qualcosa, a distanza di un po' di tempo è nato un arbusto, un albero che dava gli stessi frutti dai quali proveniva quel seme. Avrà associato questo fenomeno all'altro fenomeno, cioè vedendo animali o vedendo se stesso, sue compagne, constatando l'accoppiamento con un maschio e poi la nascita di un essere della stessa specie, insomma avrà fatto 2 più 2 ed è arrivato al risultato. Il guaio è stato che ne ha parlato col maschio, ma era inevitabile. Tutto ciò probabilmente accadeva con la trasformazione epocale fra l'uomo cacciatore e raccoglitore, quindi nomade, e uomo agricoltore e quindi stanziale. Quando l'uomo era cacciatore e raccoglitore non aveva nessun interesse ad essere proprietario del bosco che gli dava nutrimento. Con l'avvento dell'agricoltura e quindi con la possibilità di produrre cibo stando fermi nel senso di non allontanarsi, quindi minore lavoro e cibo in maggiore abbondanza, è insorto l'interesse per l'uomo di essere proprietario, cioè è stata introdotta quel veleno che è la proprietà privata. Perché è un veleno lo sappiamo tutti quanti, a me non lo sappiamo tutti, qualcuno lo capisce. Al capo tribù, ma a qualsiasi altro uomo, è insorto il desiderio di, dopo essere divenuto proprietario di un fondo, di lasciare, di tramandare questo fondo ai suoi figli. Quindi aveva la necessità che la o le femmine che stavano con lui ricevessero seme solo da lui, per avere la certezza che chi nascesse era suo figlio e non figlio di altri. Per ottenere questo l'unico strumento è stato e ancora è il controllo della sessualità femminile, per questi motivi tenuta in uno stato di soggezione nei confronti del marito, e le donne per secoli sono passate dal controllo del padre o dei fratelli al controllo e alla potestà del marito. Se si pensa alla dote, ancora si rizzano i capelli. La dote era il compenso che la famiglia della sposa dava allo sposo, il compenso per il sacrificio di mantenere questa donna improduttiva. Questo meccanismo si è spezzato circa 100 anni fa, nell'ultimo secolo, perché con la prima guerra mondiale tutti gli uomini, moltissimi degli uomini erano al fronte, bisognava continuare a produrre armi e nelle fabbriche sono state mandate le donne. Per la prima volta, in maniera ampia, diffusa, perché è ovvio che le donne hanno sempre svolto qualche mansione, ma in quell'occasione sono diventate necessarie e si è visto che le donne in fabbrica possono anche essere brave e produttive come i maschi, se non di più. La stessa cosa con la Seconda Guerra Mondiale, ma tutto questo è oggetto di una mini storia sociale della donna che io ho osato raccontare in 115 endecasillabi che fra poco leggerò. Si chiama quest'opera Da Zero a Una. Zero è la bisnonna di Una e viene delineata l'evoluzione sia dal punto di vista sociale che da quella religiosa, perché è chiaro che tutta questa repressione femminile la si è ottenuta combinando potere civile e potere religioso, come sempre. Tra i versi ce n'è uno in dialetto cosentino, il verso è Paciù mi alzo o t'ha bisogno ancora, tradotto vuol dire padrone mi alzo o hai ancora bisogno di me, ed è una specie di buongiorno col quale per secoli le mogli salutavano i mariti. Andiamo ai versi. Da zero a una, storia raccontata da una nipote di zero. Ed è cambiato tutto in 100 anni. Tra me e Nanna Peppina c'è un abisso. Tendeva lei l'orecchio alla campana per dire che si è fatto mezzogiorno. Al vespro si segnava con la croce e sempre con la croce e le galline spegneva il lume e se ne andava a letto. Servizio ed ornamento di un padrone che a farne a meno andava pure peggio, zitella di servizio in sacrestia. Accarezzata come una coniglia, meno preziosa certo di una vacca, Paciù, mi alzo o t'ha bisogno ancora? Come zero, ma senza il signor uno non si fa 10, 100 e manco 1000. Tra il 15 e il 18 un vento fosco, i maschi in guerra a fottersi tra loro, le braccia delle zero a fare armi in cambio delle briciole del piombo. Finito tutto, vedove del regno o mogli abbandonate dai migranti, lasciate però al posto di operaie. Qualcosa più di zero, certamente, ma ancora una no. Un'altra guerra? 20 anni dopo anche altre donne hanno conquistato il loro zero più, ad impastare ancora bombe e fame, lodando sempre il cuore di Gesù. E poi succede il bello, basta guerre, che l'ultima ha rischiato di azzerare tutti gli uno del pallottoliere. In cambio delle fedi date al duce, braccia nei cambi, in fabbrica e in cucina, si muove a compassione il principale. Un altro più allo zero non fa male, che anche la Repubblica lo vuole, e venga il suffragio universale. E crescono le zero più e più, oltre 20 anni senza un solo botto. Però tra calze a rete e consumismo, la guerra fredda, il muro, il papa buono, un Woodstock rifatto al bar di sotto, ci vuole poco a fare un 68. Alzarsi e andare a letto senza croci, pensare e poter dire, caro Dio, e tu i più, ma quando ce li dai? Il corpo me l'hai dato e quindi è mio. Non è che sei un uno pure tu. Che boh che vado a scuola, l'ho imparato. Quei libri leggo che erano proibiti da gente che parlava a nome tuo ed imponeva l'unico pensiero e tutti gli altri figli del demonio. Sensi di colpa e inferni da scontare. I roghi sono spariti dalle piazze, ma c'è rimasta al fondo d'ogni via la puzza della clero ipocrisia. E Satana mi sa che è più contento se vede l'unto in mezzo al Parlamento. Ma tu, ma chi ti ha messo lì, oh Dio? Gli stessi che s'arrogano il diritto di uccidere i soldati e fare i santi, di dare i più e i meno alle persone? Volete andare a fanculo tutti quanti? Se sei un uno tu, lo sono anch'io. Un riflesso tu. E manco tanto onesto. La storia della mela ti ci inchioda. Sapevi già il finale, bello mio. Se non sei stronzo, non sei manco Dio. Sembravi Barba Blu con le sue mogli. Sapevi che le donne sono curiose, curiose di sapere e verità. Il gioco del maschietto è sempre quello, sensi di colpa al muliebre fardello. Tu esisti solo se noi ci crediamo. Dipendi tu da noi. e sei impotente, e ti hanno dato tutto quel potere, potere che è un bisogno assoluto da usare contro noi a tua difesa, difesa della tua stessa esistenza. Chi mi abbandona è perso ed è fottuto. Parole attribuite sempre a te, ma dette pure, cazzo, dai mariti che hanno bisogno delle mogli zero. E poi si è visto che non era vero. A furia di più e più sono cresciute, siamo cresciute. Ho messo Biancaneve giù in cantina e sono io che scelgo il mio compagno, perché ne ho desiderio e non bisogno. E se finisce non è una vergogna, sto con me stessa in buona compagnia. Sappiamo lavorare e avere orgasmi, viaggiare un treno senza le rotaie, decidere finanche se aver figli. Figli voluti, non figli conigli, soldati da morire in reggimento, coglioni spaventati in sacrestia. Figli che danno a chi li ha procreati l'unica sola eternità dell'io. E anche senza scasso di campane, pieni di un sacro che non ti appartiene, uomini e donne abbiamo una preghiera. Nel nome dei miei figli sono madre, nel nome dei tuoi figli tu sei padre. E se di figli non ne ho partoriti, mi sento madre delle mie mammelle, del mio essere luna tra le stelle. Caro Signore, detto uno in cielo, caro Signore, detto uno in terra, a furia di tenerci segregate, a furia di sfruttarci e fare guerra, costrette ad essere mogli, madri o sante, scambiandovi un potere menzognero, ci avete rotto il cazzo a tutte quante. Firmato la nipote di una zero. Grazie, braccio. Un abbraccio. E niente, colpo gobbo di Gabri che sponsorizza uno dei nostri migliori momenti culturali, penso. Da scusa Gabri, non sei, ecco, sì. Abbassa no, il volume, sì, ecco. Sennò sento un po' di riverbero, grazie, sentiamo. No, volevo ringraziare, per me è splendida, ci tenevo a condividerla, insomma, e grazie per averla condivisa con noi, ovviamente. Sono rimasti ancora due minuti. Sì, è stato bello, è volevo stato dire bello. Sentire questa cosa proprio, so, quando ho così tanto bisogno di te, mi porti cibo in stanza di isolamento. Comunque, insomma, dicevo, vabbè, Cigni di Balaca questa volta ci ha delegato. Io avevo tante istanze del popolo che non citerò, perché abbiamo giusto il minuto, anzi mezzo minuto, per dire che questa puntata sarà in podcast. E volete dire qualcosa voi, così per salutare ognuno dal suo? Siamo mutati. Sono mutati. Oh Gesù, ecco. Oh Gesù, niente. Eccoli, la defaiata. Eccoli. Dite qualcosa, vi prego. Io dicevo grazie per questo esperimento. Vero, bellissimo. Grazie a voi, è stato bello viverlo, e adesso abbiamo giusto il tempo di dire sigla! Sigla! Sigla! Sigla!